Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Quante volte non solo l'abbiamo sentito dire, ma forse l'abbiamo anche un po' sostenuto io e te, che dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna. Io direi di fianco. Ecco. Pare però che in tanti casi valga anche il contrario, perché ci sono signori uomini che sostengono ad esempio la carriera delle loro consorti. E bene fanno. E bene fanno. In questo momento è sicuramente il caso della famiglia Clinton. Hillary ha già lasciato intendere che se dovesse diventare presidente degli Stati Uniti d'America richiamerà dalla pensione suo marito Bill, gli assegnerà il Ministero dell'Economia. Sarà che in questi anni se l'è cavata così bene con la gestione dei conti di casa che ritiene di premiarlo in questo modo. Tu che dici? Io dico che fa bene, l'importante è che i due si occupino di politica ed evitino di fare lavori domestici insieme, tanto non correranno questo rischio, avranno uno scuola di golf. Hillary che spolvera sopra il televisore la polvere. Che il baby doll, esatto. Non voglio pensarci. Ecco. Perché c'è uno studio norvegese pubblicato dall'inglese Telegraph, secondo cui fare i lavori domestici insieme, attenzione, porta più facilmente la coppia al divorzio. Non nei casi di grande collaborazione, infatti, il tasso di rottura del rapporto sarebbe del 50% più alto della media. Quindi divisione dei compiti. Andiamo. Andiamo. Allora, la borsa, cominciando con le notizie di denari, è positiva questa mattina. Milano sta guadagnando l'1,21%, ben impostate anche le altre piazze europee, più 0,9% su Parigi, più 0,8% su Francoforte, Londra più 0,9%. Mercato galvanizzato anche dal recupero del prezzo del petrolio, che è sui massimi da 6 mesi a questa parte, siamo sui $49 al barile, per cui preparati Nicoletta che tra poco vedremo già le fiammate sul prezzo della benzina, qualche aumento è dietro l'angolo. Per quello che riguarda i titoli migliori, oggi buon recupero, ottimo recupero di tutti i titoli bancari, con Pop Emilia Romagna in testa, più 4%, media 7+4, più 3,5 punti per UbiBanca e Monte dei Paschi. Ricordiamo che ieri il Banco Popolare con BPM hanno presentato il piano industriale di questa entità che si sta formando. In ribasso abbiamo Fiat che perde 2 punti e oggi lo 0,8% lo lascia sul campo anche Salvatore Ferragamo. Sotto i riflettori Unicredit c'è l'ipotesi di un rimpasto ai vertici. Amazon sfida i supermercati. Il colosso del commercio online si appresta a lanciare una nuova serie di marchi propri che vanno dal cibo ai detergenti. L'annuncio non ha però scosso più di tanto il titolo in borsa. I nuovi marchi esordiranno probabilmente nei prossimi giorni, saranno specializzati nella vendita di vari prodotti, inclusi spezie, chissà se c'è anche la curcuma, Nicoletta. Sicuramente sì. Tè, caffè, alimenti per bambini e vitamine, ma anche pannolini, detergenti per la lavatrice. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, Amazon sta lavorando a suoi possibili marchi da diverso tempo, visto anche il successo ottenuto appunto da questo segmento di mercato, senza dimenticare che questo gruppo, con l'importante quantità di dati raccolti, è in grado di predire quali prodotti venderanno meglio di altri. Vi abbiamo ricordato tante volte in questi giorni, scadevano ieri 16 maggio i termini per chiedere l'esonero dal canone RAI per l'intero anno in corso per chi non possiede una TV, doveva presentare appunto questa autocertificazione. Se vi siete dimenticati di questa scadenza, e pare che l'abbiano fatto in molti, prima contestano il pagamento del canone in bolletta, poi si scordano però di fare l'autocertificazione per non pagarlo. Avete tempo ancora fino al 30 giugno per presentare l'autocertificazione che vi permetterà di non pagare, se non altro, il canone relativo al secondo semestre, cioè luglio-dicembre 2016. Anche in questo caso vi spiega tutta un'associazione dei consumatori, vi raccomandiamo al sito di Altro Consumo. Lo abbiamo detto ieri e vi abbiamo invitato a segnalarci tutte le iniziative di educazione finanziaria sparse sul territorio italiano, e già cominciano ad arrivarci le prime segnalazioni. Se ne state organizzando una, se sentite parlare di un'iniziativa vicino casa vostra dove si parla di soldi, di educazione ad un uso consapevole del denaro, raccontatecelo a cuoredenari@radio24.it e noi naturalmente le amplificheremo inserendole nella nostra agenda. Allora, di quale parliamo oggi? Il 9 giugno a Roma, presso il Roma Eventi Fontana di Trevi, Ascosim, che è l'associazione delle SIM di consulenza indipendente, ha organizzato questo convegno dal titolo Consulenza, pianificazione ed educazione finanziaria. L'obiettivo è quello di analizzare le iniziative e i progetti avviati in Italia e in altri paesi per verificare come funzionano, e naturalmente si parlerà soprattutto della maggiore complessità degli strumenti finanziari sui quali investono gli italiani. E per la rassegna stampa di Cuore partiamo dai dati rilevati dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, che sottolinea che il 23%, circa uno su quattro dei ricoveri nei reparti di medicina interna, riguarda persone con diabete. Il dato d'altronde non sorprende, perché il diabete, lo sappiamo bene, lo abbiamo ripetuto tante volte, è una malattia ad elevato rischio di complicanze e di ospedalizzazione. Secondo i dati dell'Osservatorio Arno 2015, la percentuale di ricovero ordinario è del 62% più alta tra le persone con diabete rispetto alle persone che il diabete non ce l'hanno. È una malattia che negli ultimi anni ha raggiunto i numeri di una vera e propria pandemia, con altissimi costi sociali ed economici. Ma la buona notizia è che la maggior parte dei casi di diabete di tipo 2 è prevenibile con un corretto stile di vita, a partire proprio dall'alimentazione. Proprio dal 26esimo congresso della Società Italiana di Diabetologia arriva un'indicazione pratica che si potrebbe riassumere così: cambiando l'ordine delle portate il risultato migliora. Secondo gli esperti, infatti, il primo piatto dovrebbe diventare il secondo e viceversa, perché mangiare proteine e lipidi prima dei carboidrati potrebbe aiutare a tenere sotto controllo la glicemia, evitando soprattutto i picchi dopo i pasti. Sono le 10:41. Da quanto tempo state sedute? Pensateci e, se potete, nel caso, alzatevi e muovetevi. Secondo una meta-analisi pubblicata sull'American Journal of Preventive Medicine, stare seduti più di 3 ore al giorno aumenterebbe il rischio di accumulare chili in eccesso e di sviluppare problemi di circolazione sanguigna. Quindi ogni tanto sgranchitevi le gambe facendo magari una passeggiata, e se avete a disposizione delle scale, utilizzatele. È un esercizio importante e utile. L'importante è naturalmente farle nel modo corretto, utilizzare le scale, no, per il nostro benessere. Come si fa? Quando si sale, per non sovraccaricare le ginocchia e soprattutto minimizzare il rischio di distorsione, è bene appoggiare sul gradino l'avampiede e non l'intera pianta, come siamo soliti fare, mentre quando si scende il piede va posizionato il più possibile perpendicolare allo scalino, cercando di non rivolgere la punta verso l'esterno. Provateci. E per chiudere, una notizia, meglio una proposta, che arriva dalla Gran Bretagna, che pensa a una tassa sugli antibiotici. Gli antibiotici più comuni, usati sia per l'uomo che per gli animali, dovrebbero essere tassati per finanziare la ricerca su nuovi farmaci in modo da contrastare l'antibiotico resistenza. E questa è la soluzione proposta da Lord Jim O'Neill, ex capo di Goldman Sachs, attuale ministro inglese del commercio, incaricato dal governo di trovare una soluzione al problema, come riporta il quotidiano The Independent. Il pericolo per la salute umana, rappresentato dall'antibiotico resistenza, secondo O'Neill, è molto più preoccupante, Deborah, del crack finanziario del 2008. E lui se lo ricorda bene, perché è stato tra i protagonisti di questo crack. Ti piace, eh? Vedi che l'abbiamo tirata in ballo, ma noi vogliamo commentare questa notizia in diretta col professor Walter Ricciardi, che è direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno professore, bentornato a Cuore di Mare. Grazie, buongiorno a tutti. Professore, le piace questa idea di utilizzare le tasse o qualche forma di addebito per finanziare la ricerca? Che ne pensa? Mi sembra un'idea balzana, devo dire che il governo inglese in questo periodo ne sta veramente tirando fuori diverse. È un'idea balzana, perché è dimostrato scientificamente che le tasse sono regressive, quindi sostanzialmente svantaggiano le persone che hanno più bisogno, e invece la strategia per contrastare questo fenomeno è proprio nel cercare di usare meglio gli antibiotici per quanto riguarda la pratica, e poi trovare delle alleanze internazionali pubblico-privato per cercare di sintetizzarne di nuovi, perché è vero, la minaccia è enorme. Oggi abbiamo migliaia di persone che non sappiamo come curare, perché hanno delle malattie infettive che sono resistenti agli antibiotici, però non è questa la strada per cercare soluzioni. Professore, per il nostro paese il problema è serio. L'Italia è il paese europeo con le più elevate percentuali di resistenza verso gli antibiotici, verso quasi tutti gli antibiotici, come lei ricordava. Ci sono delle indicazioni, ciascuno di noi può giocarsi, no, la sua parte. Ad esempio, banalmente, anche lavarsi le mani ed evitare di portare il cellulare negli ospedali, potrebbe essere già un'idea. Ma professore, che cosa si può fare? Quali sono le indicazioni che vogliamo dare agli ascoltatori di Cuore Denari? Ma premesso che naturalmente la prevenzione è sempre la cosa migliore, quindi il lavaggio delle mani di per sé elimina oltre il 50% delle infezioni, poi è un tema di attualità le vaccinazioni, abbiamo vaccinazioni straordinarie che proteggono bambini, giovani, adulti, anziani da questo, e poi ci bisogna utilizzarli bene, cioè gli antibiotici sono contro le malattie batteriche, non contro le malattie virali, quindi quando c'è l'influenza il medico le deve prescrivere soltanto se c'è una sovrainfezione batterica, contro l'influenza banalmente gli antibiotici non funzionano, ma anzi generano antibiotico resistenza. Un'altra cosa che dobbiamo fare è, quando si prende un antibiotico, prenderlo per l'intero ciclo terapeutico, non appena si sta bene, si sta meglio, smettere. Normalmente un ciclo di antibiotico terapia è 5 giorni, quindi bisogna completarlo. L'altra cosa è non prendere gli antibiotici, questo in Italia siamo i recordman europei, cioè molto spesso noi utilizziamo gli antibiotici che sono proprio residui dalla cura dell'armadietto, sì. Esatto, e quindi si chiamano leftover in termine tecnico, ben il 30% degli italiani fa questo comportamento, cioè è rimasto l'antibiotico dal ciclo precedente, finisce la scatola, quello è proprio, dai, il sistema migliore per generare antibiotico resistenza. Ecco, prendo gli antibiotici, ne avevo ancora 2 o 3 complesse e quindi sì. Invece no, fermenti lattici, professor Ricciardi, consigliati durante la cura? Sì, fanno bene, perché di fatto molti antibiotici alterano la flora intestinale, per cui corredare un'antibiotico terapia con yogurt o con fermenti lattici fa sempre bene. Va bene, allora Deborah, dobbiamo dire a Jim O'Neill che questa idea qua non ci piace tanto. Adesso avrà sentito Cuore e Denari, ci ripenserà senz'altro. Professore, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata, a presto. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Allora, adesso abbiamo il traffico e poi attenzione, perché parliamo di questa idea che ha avuto un ministro amico, in questo caso di Cuore e Denari, non come O'Neill, il ministro Lorenzin, che nei giorni scorsi appunto ha rilanciato l'idea di supportare un po' le politiche di welfare in Italia, magari raddoppiando il bonus bebè in corso. Stamattina ne ha parlato anche Alessandro Milan a 24 Mattino. Noi ne parliamo adesso invece per fare un po' il punto della situazione sugli strumenti di cui le famiglie dispongono già per poter sostenere un ampliamento del nucleo familiare. A tra poco. Cuore e Denari. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Allora, fonti di Palazzo Chigi hanno sottolineato come l'ipotesi del raddoppio del bonus bebè sia allo stato solo una delle proposte in campo prioritario, è uno sguardo complessivo. Queste sono sempre appunto dichiarazioni che dal Palazzo del Governo vengono. Prioritario uno sguardo complessivo sugli strumenti di welfare e non una o un'altra ipotesi, che al momento restano tali. E comunque nei giorni scorsi, in un'intervista a Repubblica, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha parlato di rischio di crack demografico e indicato i bonus bebè come un modo, ma non l'unico ovviamente, per affrontare quella che definisce la vera emergenza italiana. D'altronde, Nicoletta, insomma, i figli se ne fanno sempre meno perché sono un impegno economico in primo luogo, oltre che organizzativo appunto delle famiglie. E le famiglie hanno pochi aiuti. Esattamente, quindi rafforziamo anche un po' tutte le misure di conciliazione vita-lavoro, che forse sarebbe l'idea migliore. Detto questo, in attesa che si chiarisca un po' l'idea, il governo, su cosa vuole fare del bonus bebè, se raddoppiare quello che c'è già in corso, riorganizzare magari gli altri strumenti che sono in circolazione, facciamo un punto della situazione su quello che abbiamo già con il nostro Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Matteo, benvenuto, ciao, eccoci a noi. Buongiorno a tutti. 5 Ciao. Minuti di tempo, poco più, per rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori, a mamme e papà all'ascolto, su quello che già esiste. Il bonus bebè da 80 euro che viene erogato quest'anno e il voucher asilo nido o babysitter, appunto questa agevolazione da 600 euro al mese in corso da un po', che dal 2016, ricordiamo, è stata la novità importante, spetta anche alle lavoratrici autonome non parasubordinate. Allora, riepilogo della situazione sul bonus bebè 2016. Ho già detto a quanto ammonta, come lo si chiede, a chi spetta, che cos'è? Sì, allora il bonus bebè spetta a tutti i genitori che siano cittadini italiani o comunitari o anche gli extracomunitari che hanno il permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo. Lo si può chiedere se nasce un figlio oppure anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo. E ha una durata di 3 anni dall'ingresso del bambino in famiglia. Il bonus è stato introdotto dal 2015 per il triennio 2015-17, cioè quindi per tutti i nati nel 2015-2016-2017 potrà essere chiesto. Ha una durata di 3 anni e viene riconosciuto appunto 80 euro al mese se la famiglia ha un ISEE, cioè un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 25.000 euro, che diventano 160 euro se l'ISEE è inferiore a 7.000. La domanda si fa una volta sola per i 3 anni, però bisogna ricordarsi ogni anno di ripresentare la dichiarazione sostitutiva unica, quella che serve per ottenere l'ISEE. Quindi ogni anno bisogna certificare in pratica la situazione economica della famiglia per giustificare di avere diritto al bonus, altrimenti viene sospesa. La richiesta, Matteo, è esclusivamente telematica? Si deve fare solo sul sito INPS oppure ci sono alternative? La richiesta è solo, diciamo, telematica, ma non solo via internet, si può fare tramite il sito internet e quindi bisogna avere il codice e il PIN dispositivo. Si può fare anche tramite un numero verde oppure ci si può affidare ai patronati, chiedere appunto l'aiuto dei patronati e inviano loro tutta la pratica, la procedura. Spirito diverso e funzionamento diverso invece per il voucher asilo nido o babysitter, qua l'importo che viene erogato alle famiglie che ne fanno richiesta è ben diverso, 600 euro al mese, perché l'obiettivo di questa cifra è proprio svolgere un servizio, no Matteo? Sì, esatto. Questo ulteriore aiuto scatta alla fine del congedo di maternità obbligatorio ed è alternativo al congedo parentale, cioè ai mesi che il padre o la madre possono prendere per assentarsi dal lavoro per accudire il figlio. E quindi alternativo al congedo parentale, e serve per pagare la retta dell'asilo nido. Bisogna iscriversi in una delle scuole che diciamo così ha aderito al progetto, data la disponibilità all'elenco, si trova sempre sul sito. Sono accreditate sul sito dell'INPS, sì. Esatto. Oppure si ottengono dei voucher per pagare la babysitter. Qui c'è la novità da qualche settimana, perché già l'anno scorso era stato previsto che l'INPS non avrebbe più gestito voucher cartacei. La cosa poi si è protratta di qualche mese, il passaggio definitivo è avvenuto qualche settimana fa, per cui da lì in avanti chi vuole i voucher dovrà gestire tutto online anche in questo caso, sia la domanda che poi la gestione dei voucher, che praticamente sono telematizzati, non sono più cartacei. Per cui la mamma o il padre che li utilizza deve registrarsi sul sito internet, la stessa cosa deve fare un accredito la babysitter, ovvero il babysitter che candidata, che insomma, bambino, esatto, e poi praticamente l'accredito dei soldi passa attraverso una carta di credito prepagata e tutto questo per rendere più tracciabile la gestione, certo, dei voucher. Senti Matteo, ti ricordi che nella puntata precedente in cui avevamo affrontato questo argomento era stata posta anche da alcune famiglie questa domanda: la babysitter in questione può essere anche la nonna? Come avevamo risposto? Mi pare che fosse affermativa. Sì, non c'erano, non ci sono vincoli di parentela nella norma, quindi finché non vengono date indicazioni diverse, quindi nonna, sorella, zia. Esatto, anche un parente stretto appunto può avere questo sostegno finanziario. I due, gli 80 euros di bonus, gli 80 euros di bonus bebè e i 600 euro di agevolazione per voucher asilo nido babysitter, sono compatibili Matteo? Sì, sono compatibili. Quindi una famiglia può chiedere entrambi i sostegni finanziari. Penso di aver detto sì, l'unica cosa, 10 cosa secondi. I voucher babysitter non sono legati all'ISEE. Ecco qua, aspetto importante. Sono fruibili anche da altri. Ottimo, grazie a Matteo Prioschi, abbiamo ricordato tutto sugli strumenti già esistenti per le famiglie appunto per sostenere l'ampliamento del nucleo familiare nella speranza che magari qualche cosa di nuovo e buono arrivi. Da Palazzo Chigi, Nicoletta, andiamo a sentire il giornale radio, vieni con me? Con piacere. State ascoltando un programma offerto da... Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Ci siete tutti? Allora, eccoci di nuovo insieme. Dai, fai l'appello. Ilari, Giovanna, Francesca, Alberto, ci siete tutti? Allora, ci siamo occupati del bonus bebè, ma vorremmo occuparci anche delle amiche che un bebè lo stanno aspettando. Naturalmente l'invito è rivolto ai papà, ai futuri nonni che si stanno già preparando per questa nuova straordinaria avventura. C'è un proverbio che dice che per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Quindi noi siamo pronti, siamo anche delle zie, direi, collaudate. Altro che. Quindi accettiamo candidature. Se state aspettando un bambino, se avete partorito da poco, restate con noi, condividiamo dubbi, domande, esperienze, segreti, leggende metropolitane, ma soprattutto le indicazioni dei più recenti studi scientifici insieme al dottor Filippo Ongaro, vicepresidente Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Dottor Ongaro, nel suo ultimo libro, di cui vorrei poi parlare approfonditamente in una puntata, perché è un libro che mi è piaciuto molto, lo sta leggendo anche Deborah, Fino a 100 anni, si parla di vivere a lungo e bene, ma per farlo bisogna giocare d'anticipo. Chi ha tempo non aspetti tempo, il succo è questo qua, perché le basi della salute si mettono già nella pancia della mamma. La ricerca ci dice, pensate, che molte malattie croniche dell'età adulta possono essere prevenute proprio durante i 9 mesi di gestazione. Parlo di asma, di allergie, di malattie cardiovascolari. Insomma, i 9 mesi nella pancia della mamma sono determinanti non solo per la salute del bambino, ma anche per quella dell'adulto. Insomma, ormai tutti gli studi sottolineano che per una corretta formazione di un feto prima e di un uomo poi, i primi 1000 giorni di vita, a partire dal concepimento, fanno la differenza, sono cruciali. Dottor Ongaro, tra l'altro mi sono resa conto che le ho dato già uno spunto per un nuovo libro, quindi dopo Fino a 100 anni le toccherà scrivere i primi 1000 giorni. Beh, in effetti, Nicoletta, sarebbe un'ottima idea, e a volte sembra strano che un medico che si occupa di anti-invecchiamento possa parlare di temi che riguardano invece feti, bambini, neonati, però quello che emerge da moltissime ricerche recenti è che questo primissimo periodo di vita è davvero fondamentale per tarare la funzionalità delle nostre cellule e dei nostri geni. L'epigenetica, che è un tema di cui abbiamo parlato spesso, ci insegna che le capacità del DNA possono essere potenziate o inibite a seconda degli stimoli che il nostro organismo riceve nella vita adulta, ma di particolare importanza sono proprio questi primissimi stimoli che derivano dallo stile di vita della mamma, no? E che rappresentano proprio gli stimoli iniziali a cui l'organismo viene esposto, e da un lato occorre logicamente evitare gli stimoli dannosi, ma insomma questo è noto, no? Il fumo, però ripetiamolo, va, perché ripetita aiuta. L'alcol, i farmaci e anche purtroppo, ma questo è meno evitabile, insomma, l'inquinamento che ci circonda sono certamente fattori che non incidono positivamente sulla salute di nessuno, ma ci sono anche aspetti però meno noti e un pochino meno presi in considerazione, come, non so, mi viene in mente i livelli per esempio di vitamina D nella mamma, che numerose ricerche hanno indicato come molto importanti per lo sviluppo corretto del feto. La vitamina D, l'abbiamo detto altre volte, è una vitamina molto importante non solo per le ossa ma anche per il sistema cardiocircolatorio, per la protezione delle cellule, è una sostanza antitumorale, stimola il sistema immunitario e dunque è molto importante che i livelli di vitamina D della mamma siano adeguati per sostenere anche lo sviluppo del feto. Quindi diciamo anche qui si torna, come spesso accade, a parlare di nutrizione, di stile di vita. Certo, si parte tutto da lì, dal nutrimento. Sì. D'altronde, dottor Ongaro, le mamme di oggi sanno bene che non devono mangiare per due, no? Che non devono mangiare troppo né troppo poco, che la dieta deve essere varia, ricca ed equilibrata, e che, in grado proprio di fornire tutto quello che è necessario. E parlo anche delle vitamine, dei micronutrienti che sono fondamentali per lo sviluppo del feto. Questa è la teoria, dottor Ongaro, la conosciamo tutti, ma passando alla pratica, che cosa devono e possono fare le mamme di oggi per tutelare la propria salute? Questo è importantissimo, naturalmente l'esito della gravidanza, e mettere le basi per la salute futura del proprio bambino. Diamo delle indicazioni. Beh, allora io credo che la prima indicazione sia senza dubbio che bisogna curare la qualità dell'alimentazione più che la quantità. Questo ormai per fortuna viene fatto, diciamo che si vedono sempre meno questi aumenti di peso clamorosi durante le gravidanze, che poi comportavano ovviamente qualche difficoltà metabolica anche nella mamma nel periodo successivo al parto. quindi qualità piuttosto che quantità. È chiaro che le basi rimangono quelle da indicare un pochino per tutte, ma forse con un po' più di attenzione, cioè molta verdura e molta frutta, che sono anche ricche di acqua e quindi contribuiscono a idratare, oltre che di vitamine e minerali, i cereali integrali per dare energia e fibra, ma anche per dare un contributo ulteriore di vitamine che i cereali, per esempio, raffinati invece non danno. Non bisogna ridurre i grassi sani, di particolare importanza sono gli omega 3, soprattutto l'acido docoso eivanoico, che in sigla viene detto DHA, che è fondamentale per lo sviluppo del cervello, e quindi anche qui in alimentazione onnivora che contempli anche l'utilizzo di pesce sembra essere importante, certamente stando attenti al problema, anche qua ahimè purtroppo bisogna sempre citarlo, dell'esposizione a sostanze tossiche come il mercurio, quindi magari evitare i pesci di grandi dimensioni che tendendo a vivere molto più a lungo incamerano dosi più elevate di metalli pesanti. Importanti i legumi, che danno un contributo di proteine in più, ma sempre anche molta fibra, e invece diciamo ridurre tutto quello che riguarda i dolci, gli zuccheri, alla soddisfazione delle famose voglie, ma insomma cercando di non esagerare e prendendo un po' la gravidanza, dal mio punto di vista, come un'occasione importante per correggere la propria nutrizione, quella del partner e della futura famiglia, cioè cercare veramente di fare di questo momento un momento importante per rivedere come gestire la salute dell'intera famiglia. Insomma. Dottor Ongaro, nel suo libro, ricordo il titolo perché già gli ascoltatori ci stanno chiedendo il titolo, è Fino a 100 anni, l'abbiamo presentato all'inizio e lo dico di nuovo il titolo volentieri. E, insomma, nel suo libro tratta anche il tema delle tossine e come detossificare l'organismo. Credo che questa sia di particolare importanza anche durante la gravidanza, o sbaglio? No, è di particolare importanza, senza dubbio, è importante sempre, ma è chiaro appunto che abbiamo detto all'inizio che in un momento così delicato come quello della gravidanza, l'esposizione alle sostanze tossiche, insomma, logicamente è un contributo non positivo. Insomma. Dottor Ongaro, a proposito di prevenzione, è stato dimostrato, e per sottolineare anche il ruolo cruciale dell'alimentazione, è stato dimostrato che intervenire precocemente sulla microflora intestinale attraverso i probiotici, fin dalla gravidanza, e anche somministrarli al bambino nell'arco del primo anno di età, potrebbe ridurre del 50% l'incidenza di allergie, che sappiamo sono in aumento, no? Questa è solo una delle buone notizie che ci arrivano dalla ricerca, che sta in fondo, diciamo, alla verità, riscoprendo il valore terapeutico e preventivo degli alimenti. Lei di questo ne parla in tutti i suoi libri. Sì, diciamo che bisogna dire era ora, nel senso che dopo tanti anni in cui forse ci siamo arrivati. Sì, forse la medicina ha un po' trascurato questi aspetti, ora c'è un deciso cambio di tendenza e si vede come lo stile di vita, quindi l'attività fisica, ma anche l'alimentazione ritornino sicuramente al centro del quadro. Certo, la salute dell'intestino è una parte molto importante di questo approccio. L'intestino è un filtro di incredibile capacità che è in grado di tenere fuori dal circolo le sostanze appunto tossiche e invece far entrare nel nostro organismo quelle che ci servono. E la flora batterica è fondamentale per la salute dell'intestino, è diciamo una sorta di sistema aggiunto al nostro sistema immunitario che regola moltissimi dei processi che riguardano l'immunità e quindi indubbiamente un'altra di quei tipi di interventi con l'alimentazione, ma anche in questo caso con i probiotici, quindi con gli integratori, in grado secondo me di dare degli ottimi input, diciamo, alla crescita del futuro bambino. Allora, prima di salutarla, stavo pensando che la gravidanza è uno stress test, no? Perché non solamente sono gli stessi. Non li fa solo la Banca Centrale Europea. Esatto. Perché è anche un'occasione, soprattutto per la donna, di conoscere meglio il proprio corpo, fare una valutazione del proprio stile di vita. Perché durante i 9 mesi di gravidanza può capitare, dottor Ongaro, lei lo sa bene perché le sue pazienti glielo racconteranno, e immagino anche sua moglie, di confrontarsi con alcuni disturbi, no? La difficoltà a digerire, il gonfiore, poi ci sono le nausee dei primi mesi, poi l'insonnia, la stipsi, che spesso vengono considerati un po' come effetti collaterali della gravidanza. In realtà molto probabilmente questi disturbi erano già lì normalmente presenti e vengono un po' amplificati, slatentizzati dalla gravidanza, no? Per questo dicevo che è uno stress test. Dottor Ongaro, lei ha qualche suggerimento per le mamme che ci stanno ascoltando? Sicuramente la situazione è un pochino questa, poi si va ad aggiungere anche la particolare condizione ormonale indotta dalla gravidanza stessa, che può anche essere una concausa di alcuni sintomi. È chiaro che però se io ho un'alimentazione ricca di zuccheri, ricca di grassi o eccessiva in termini di quantità, tutti i problemi rischiano di amplificarsi, quindi ribadisco che se si cura la qualità dell'alimentazione, non si mangia per due ma si mangia meglio, questi sintomi possono essere contenuti. Poi in alcuni casi, sempre sotto il controllo del medico, si possono anche utilizzare delle sostanze specifiche, mi viene in mente lo zenzero per esempio, che nei casi di nausea o di vomito può essere una sostanza da aggiungere. Però credo che la cosa più importante sia capire che, appunto, essendo un po' un test da stress, è chiaro che se io tengo l'organismo nella migliore delle sue condizioni attraverso un'alimentazione regolata, tutti questi effetti collaterali sono probabilmente destinati ad avere un impatto minore. Dottor Ongaro, quando è che viene a parlare con noi del suo libro Fino a 100 anni? Presto, molto presto. Ecco. Prestissimo, perché qua se no è ha preso in un attimo. Un impegno davanti a milioni di persone, direi, architetti compresi. Architetti compresi. Intanto ci dà due regoline, due per vivere fino a 100 anni, ma soprattutto per vivere bene, perché non ci interessa vivere a lungo se poi dobbiamo passare gli ultimi anni della nostra vita pieni di acciacchi, anche perché poi non possiamo neanche più permettercelo, lo dico alla donna di denari, perché insomma dobbiamo anche per il nostro Servizio Sanitario Nazionale augurarci di stare bene. Dottor Ongaro. Assolutamente. No, devo dire che in questo libro ho voluto, pur trattando anche temi di cui avevo parlato in precedenza con dei tagli diversi come la nutrizione, ho voluto dare uno spazio molto più ampio all'aspetto mentale. Cioè sono partito dalla domanda: come mai oggi tantissime persone sanno esattamente quello che devono fare per stare bene ma non riescono a farlo? Allora è venuto un pochino l'intento di parlare delle abitudini, del carattere, di come si cambiano le abitudini, perché ci sono delle cose molto interessanti. Tutti pensano per esempio che sia il carattere a determinare le abitudini, in realtà è il contrario, sono le abitudini a determinare il carattere. Se cambi abitudini cambia anche il carattere, cambierà l'esito, diciamo, complessivo della tua vita. Quindi credo che il segreto da esplorare nei prossimi anni sarà molto di più il controllo della mente, delle nostre abitudini e delle scelte quotidiane che facciamo, inserendo le cose che conosciamo a livello di alimentazione, attività fisica, tecniche di rilassamento, eccetera. Allora, c'è un'abitudine che possiamo provare a cambiare e darci un tempo? 21 giorni, vero, servono di solito? Dicono, diciamo, che ci sono varie stime, quella che io ho trovato più attendibile, ma insomma poi è un giochino, parla di 66 giorni, quindi 66, circa 2 mesi, no? Tutte queste esse, io avevo detto 21 perché sono un pochino più veloce, lei mi dice subito 66, vabbè, 66 giorni. Diciamo che al di là della quantità, credo che ci sia una cosa molto importante da capire, che spesso è fraintesa, cioè tutti credono che il cambiamento avvenga in particolare se hai una grandissima forza di volontà. Ma non è proprio così, cioè la forza di volontà è qualcosa di esauribile, si esaurisce in tutti, non è che chi riesce a cambiare vita è tanto più forte di un altro. La chiave sta nel cercare delle ricompense, cioè chi riesce a cambiare vita davvero, a scegliere uno stile di vita più sano, è perché trova in queste scelte delle ricompense, e queste ricompense vanno a sostituire la ricompensa che c'era prima nel dolce, nella mangiata. Quindi anche qui è da adottare una chiave un pochino più furba, no? Invece di dire ma io non c'ho forza di volontà, no, quindi non riuscirò più a cambiare. Non è così, se si trova il modo di crearsi, di darsi delle ricompense, e gli ascoltatori di Cuore Denari hanno una ricompensa quotidiana ogni giorno alle 10:30 fino a mezzogiorno, voilà, una ricompensa straordinaria. Acquistano l'anno di vita. È una battuta, ma non lo è in realtà. Nel senso che anche questo, il fatto di stare vicino alle persone con dei temi di questo tipo sicuramente ha contribuito a far cambiare vita a un sacco di gente. Grazie, quindi, dottor Ongaro, ci piace molto. Voi. Buona giornata. Ci sentiamo presto, grazie. Prestissimo. Allora, $2,000, ho sentito 2,500? Io offro 4,000. L'offerta è di 4,000. L'offerta è di 4,000. Ho sentito 5. Qualcuno offre 5? 5,000. 6,000. Allora, 6,000. Ti dice niente Le donne di Algeri di Picasso? Beh, Sì. Ecco, lo sai che questa opera è stata battuta a New York a maggio dello scorso anno? Sai per quanto? Di così una cifra. Per il fortunato aggiudicatario. Guarda, deve di essere una cifra con tanti zeri. Allora, sicuramente ha tre cifre. 179 milioni di dollari. Avevi questi due spiccioli. Perché lo scorso maggio, maggio dell'anno scorso ti è ripresa un po' di ferie. Chissà se sei andata a New York appunto a fare l'acquistone. Allora, oggi parliamo in occasione della tredicesima uscita dei tuoi soldi, che è la guida all'educazione finanziaria che da molti martedì pubblica Il Sole 24 Ore. Oggi parliamo di investire in arte e collezionismo. Allora, io intanto ci tengo anche a segnalare che oltre a questa guida di oggi segnaliamo anche appunto il lavorone che fa Marilena Pirrelli, coordinatrice della pagina di Art Economy 24, tutte le settimane con Plus 24 del Sole 24 Ore, e segnaliamo anche il lavoro che ogni tanto facciamo noi un po' indagando in questo mercato, in questo mondo che è molto interessante, ma attenzione, non è per tutti, perché un po' come per gli strumenti finanziari bisogna sempre maneggiare tutto, certo, con un pochino di cura e avvedutezza. Allora, stamattina ci aiuta per così muoverci con un po' di sale in testa nel mondo delle opere d'arte, qualora queste volessero essere un po' una parte del nostro investimento e del nostro risparmio. Roberto Brunelli di Forlì, autore, collezionista, amante, esperto di investimenti in arte, autore del libro Investire in arte e collezionismo insieme allo storico dell'arte Salvatore Puzzella. Brunelli, buongiorno, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Era lei che lo scorso anno si è comprato Le donne di Algeri di Picasso? magari. Senta, allora, questo è un mondo molto interessante che in realtà incuriosisce anche proprio coloro che non sono per niente addetti ai lavori, ma sono banalmente degli appassionati, ma qualcuno ha un po' il pregiudizio che sia veramente un settore esclusivamente per addetti ai lavori, no? Invece l'investimento in arte, in termini generali, poi magari scandaglieremo singoli settori, ma lo possiamo considerare un investimento alla portata di tutti e non solo da ultramilionari, Brunelli? Sicuramente l'investimento in arte è oggi più che mai un investimento assolutamente alla portata di tutti, in cui non è necessario di avere di disporre di grandissimi capitali per poter entrare in questo mercato. Però è anche un mondo dove magari bisogna essere un po' accompagnati da consulenti finanziari che ne sanno un po' più di noi, o possiamo anche fare da soli, siccome non è un investimento in cui si fa trading, per esempio, come per la finanza, però ci sono anche in questo mondo rumors di mercato, attenzioni da porre appunto con cautela, informazioni da prendere, bisogna stare attento anche, immagino, a fare selezione delle informazioni che riceviamo. No? E allora, intanto, come si comincia? Come ci si informa, Brunelli? Allora, innanzitutto vi deve essere un'empatia verso l'opera d'arte per diventare investitore in un'opera d'arte. Il sistema migliore è iniziare il prima possibile a frequentare fiere, mostre, leggere libri, e soprattutto oggigiorno, grazie al web, vi è la possibilità di stare informati in tempo reale su il nostro investimento che vogliamo andare a fare, le variazioni di mercato che ha. Vi sono delle piattaforme virtuali come il forum di finanza online della Brown Editore, che è molto seguito e ci permette in tempo quasi reale di essere a conoscenza di tutte le notizie che ci servono per valutare un artista. Volevo anche invitare stamattina i nostri ascoltatori a dirci la loro su questo argomento. 800 24 00 24, vi state muovendo da poco in questo mondo proprio magari per cercare di capire se nel vostro portafoglio di investimento ben diversificato, perché la parola d'ordine deve essere sempre quella, magari è il caso di inserire anche una piccola scultura, un'opera d'arte, un quadro, un Picassino, oppure magari così anche il tema dell'arte moderna è molto interessante, Brunelli, perché noi effettivamente quando parliamo d'arte ci riferiamo quasi solo ed esclusivamente ai classici, nella nostra testa ci sono quelli, no? In realtà c'è il mondo moderno che immagino sia ricco di opportunità. Infatti, guardi, neanche a fare apposta introduce un argomento che è molto sentito anche da parte mia. In Italia abbiamo la grande anomalia che la carta non è considerata al pari dell'olio su tela. Invece vi sono artisti italiani che prediligono il materiale, la base della carta, che in Italia si può acquistare quindi a un prezzo decisamente scontato rispetto a un'opera ad olio su tela, ma un domani, quando l'artista diviene internazionale, nei mercati esteri non vi è assolutamente differenza per il supporto che ha usato l'autore. Quindi possiamo permetterci di acquistare opere su carta di ottima fattura e qualità, che quella deve sempre essere la base della nostra scelta, di artisti, pagandole meno di un olio su tela, e in caso l'artista mantenga le aspettative per il quale l'abbiamo acquistato, ci permette veramente di fare un ottimo gain un domani. Senta Brunelli, adesso io devo andare in pausa a raccontare la borsa di oggi, poi continueremo con lei ad analizzare questo mondo, questo mercato che peraltro sulla guida di oggi racconta anche quali sono le cifre che movimentano il mercato dell'arte. Pensate che nel 2015 ha scambiato quasi 64 miliardi di dollari, anche se c'è stato un calo sull'anno precedente, ma il fatturato è ancora molto consistente, e New York è la piazza più importante per il mercato internazionale, però le modalità di acquisto e di investimento più diciamo ricorrenti, ci sono le aste, le gallerie, ma da che cosa è meglio cominciare per i meno esperti, Brunelli? Ma secondo l'acquisto me, diretto secondo... ad una mostra d'arte, per esempio? Ma l'importante, guardi, non avere nessun pregiudizio sulla piattaforma d'acquisto. Anche nei siti di aste online è possibile fare oggigiorno degli ottimi acquisti, per via del fatto che l'unico gap, l'unico handicap che ha l'investimento in arte è quello del bisogno eventualmente di dover liquidare la propria collezione, alcune opere nel breve tempo. Per questo non è difficile poter fare delle ottime acquisizioni anche proprio stando a guardare le piattaforme online o certi siti in cui vi è anche uno scambio di opere tra collezionisti, in cui si paga l'opera d'arte sicuramente con uno sconto maggiore rispetto a una galleria. Ah, però, quindi anche questo è un mercato dove ci sono gli sconti, i saldi, però insomma attenzione anche a questi. Allora, ci fermiamo, vado a raccontare la borsa, vado? Sì. Direi di sì, dopodiché ritorniamo. Ci buttiamo nell'arte. Con i nostri investimenti in arte, tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Allora, eccoci qua, ritorniamo con i nostri investimenti in arte. Mi rendo conto che un approfondimento di questo tipo avrebbe bisogno di un palco molto più rilevante, però insomma noi a Cuore Denari già quelle poche informazioni che possiamo dare sono le essenziali per muoverci con cautela, con padronanza però al contempo in questo mondo che sta diventando sempre più interessante, visto che la finanza, Roberto Brunelli, è sempre più traditrice, forse qua dobbiamo trovare delle alternative. E però, per chi vuole investire in questo mondo e magari poi arricchisce e abbellisce la sua casa con opere d'arte magari anche interessanti, arriva anche il momento in cui potrebbe esserci bisogno, no Nicoletta? Ce lo stavamo chiedendo a microfoni spenti. Di monetizzare. Esatto, no? Liquidare. Allora, come si fa? Soprattutto se ci rivolgiamo ad un mercato, ad una tipologia. Esatto, che abbiamo tutti i Picasso che Campigli, sono... Campigli, ma è facile. Esatto. Ma gli altri, ad esempio, degli artisti sicuramente quotati, ma... nella media, ecco. Esatto, allora lì insomma il mercato non è tanto liquido, perché in finanza si utilizza questo termine, Brunelli, e lì che si fa? Giustissimo, non è sempre detto infatti che un'opera d'arte acquistata delle quotazioni molto alte e sostenute si possa poi rivendere nel breve tempo riuscendo a mantenere anche solamente il prezzo di acquisto. Il canale migliore, più facile per vendere le opere d'arte rimane sempre l'asta. Naturalmente l'opera che andiamo a proporre alla casa d'asta italiana o straniera deve essere un'asta che ha un valore ancora attuale, non solo rispetto a quello del giorno del nostro acquisto, e soprattutto introduciamo un tema molto molto importante, che sia posto con tutte le autentiche e le certificazioni del caso. Per via del fatto che soprattutto all'inizio, quando ci avviciniamo all'investimento in arte, non poniamo la giusta attenzione verso tutta l'autenticazione e la certificazione che deve accompagnare l'opera d'arte. E non perdiamola soprattutto dopo, se questo investimento poi lo teniamo magari in casa per 20 anni, cerchiamo di fare in modo che questa documentazione venga adeguatamente conservata. Infatti dico sempre che possedere un quadro senza un'autocertificazione, una certificazione valida, è come avere un'automobile senza il libretto e certificato di proprietà, nessuno l'acquisterebbe. Sì, però non si può più recuperare, cioè quello che è stato oppure ci si può rivolgere a qualcuno che faccia una perizia. Un estratto conto te lo rifà, lo paghi. Però no, ecco, esatto, bisogna rifare una perizia da zero? No, gli artisti, gli archivi più seri naturalmente tengono copia della certificazione che viene rilasciata. Quindi ad esempio è molto facile che un archivio ti possa ridare tutta la certificazione dell'opera che hai acquistato a suo tempo. Gli archivi delle fondazioni sono molto seri in alcuni casi, in alcuni dico perché ci sono non sempre tutti, le eccezioni, certo, e quindi è sempre possibile ricostruire l'opera. Naturalmente qui parliamo di pagamenti effettuati legalmente, quindi c'è anche la tracciabilità del denaro, certo, che abbiamo investito. Senta Brunelli, questi sono un po' i rischi personali che si corrono quando si fa un investimento in arte e di qualunque tipo, e poi ad un certo punto della nostra vita scopriamo che è necessario appunto rivendere questo pezzo perché ci serve del denaro, per qualunque altra ragione, perché dobbiamo magari ridurre le dimensioni della nostra abitazione, tutto non ci sta, non siamo più in grado di conservare adeguatamente anche un'opera d'arte, perché anche quello è un aspetto rilevante. Ma perché infatti nella scelta dell'opera d'arte, oltre al gusto, il prezzo, il curriculum dell'artista, bisogna tenere sempre in considerazione che la collocabilità, come questo opera poi può essere collocata nelle abitazioni, opere che vanno oltre i 150 centimetri di dimensioni diventano a volte un po' difficoltose da poter collocare nelle abitazioni, quindi a volte pagano anche quello lì nella quotazione al momento della vendita. Senta, invece le insidie di mercato quali sono? È un tema sempre al quale bisogna prestare la massima attenzione. Innanzitutto possiamo partire dicendo che il mercato dell'arte, come qualsiasi altro settore dell'investimento, è un andamento ciclico. Dopo fasi di forte espansione è naturale attendersi fasi ribassiste. E quindi a volte in queste fasi ribassiste è possibile andare a fare degli ottimi acquisti su artisti che al momento vengono un attimino sottovalutati, la parola giusta. Qui introduciamo il tema delle riviste patinate e di tutto quello che va dietro al mondo della pubblicità e della speculazione. Un grande gallerista italiano consigliava sempre una cosa: di acquistare oggi quello che gli altri invece non acquistano. Naturalmente bisogna scegliere quegli acquisti tra gli artisti, però, che stranamente sono rappresentati da dei musei molto i contrarian importanti. Nel mercato finanziario sono quelli che vanno al contrario, però bisogna avere del coraggio anche e lì. Anche un occhio perché... ma bisogna essere informati, perché è strano che un artista faccia delle fiere importanti, che quindi, perché anche la fiera è importante, costa alla galleria, quindi è un momento di visibilità, ma che prenda parte anche a Documenta in Germania, che faccia delle esposizioni veramente importanti, e poi stranamente lo si trova a dei prezzi o a una visibilità nettamente inferiore ad artisti che, con tutto il rispetto, producono molto meno, sia come qualità di lavoro sia come visibilità. Quindi quello è un elemento che ci devi insospettire o attrarre? Attrarre, bisogna guardare sempre quello dove espone l'artista. Ad adesso... esempio in Italia il mondo delle fondazioni, diciamo che a volte permette di fare delle mostre tra un artista non dico inferiore ma non proprio ad altissimi livelli insieme a un mostro sacro rappresentato da quella fondazione. In America soprattutto questo è molto difficile, che una fondazione autorizzi una mostra tra l'artista rappresentato da essa e un middle career, un artista di media carriera, e quindi quando vedi che in America una fondazione ospita quest'artista qui, il peso ce l'ha, non è un peso indifferente. Ecco, allora c'è tutto il tema anche della fiscalità di questo investimento che non riusciamo ad affrontare. Vi invito a prendere la guida di questa mattina del Sole 24 Ore. Buttiamo dentro i due ascoltatori, Nicoletta, gli facciamo fare una risposta veloce e telegrafica da Brunelli. Alberto da Bergamo, brevissimo, grazie. Salve, volevo complimentarmi per la trasmissione. Basta la domanda che tardi. Un attimo, che siamo un po' delle opere d'arte, Alberto. Come aspetta. Le Monna Lisa della salute e del denaro. No, siccome 3 anni fa mi sono buttato nell'arte contemporanea e ho fatto un po' di investimento conoscendo un gallerista di fiducia e già un'opera l'ho venduta all'asta e ci ho guadagnato un 20-30%. Fantastico. Ha capito. Dopo un anno di... comunque ho fatto una bella collezione. Poi volevo dire, una volta che hai acquistato l'opera è anche bello perché non ci paghi più nessuna tassa. Ecco, io avevo detto adesso per la fiscalità state attenti, lui dice che non ci si pagano le tasse, non è esattamente così, bisogna però appunto muoversi con cautela anche in questo ambito. Sì. Nicoletta da Roma veloce, Alberto purtroppo dobbiamo dare spazio anche all'ultimo tema, non purtroppo, dobbiamo dare spazio anche all'ultimo tema. Che anticipiamo, parliamo di pressione, oggi è la giornata, bisogna imparare a conoscerla. Adesso non sentitevi sotto pressione, esatto. Fa aumentare la pressione. Le cose belle magari ci emozionano. Io per esempio sulla danza di Matisse, che al MoMA mi è sempre piaciuta tantissimo, mi sto lì incantata a guardarla quando l'effetto posso. Terapeutico dell'arte anche sulla nostra pressione, lo chiederemo al nostro esperto. La tua omonima, vuoi sentirla? Molto volentieri. Nicoletta, buongiorno. Salve. Già il nome la dice tanto. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, complimenti a tutti voi, mi risollevate la giornata tutti i giorni. Grazie. No, complimenti veramente. Senta, una domanda veloce. Io mi trovo nella posizione contraria, ho ricevuto in eredità da mio padre, che è una persona molto poetica, quindi è investito nell'arte, però io voglio liquidare questi investimenti, perché ho bisogno proprio e trovo questa posizione molto poco liquidabile. Comunque volevo un consiglio su dove andare, quali assi seguire o quali siti. Ottimo, Nicoletta, noi intanto le mandiamo la nostra guida perché se la merita, perché si deve muovere con cautela, soprattutto non essere gabbata anche in questo percorso di ricerca per liquidare queste opere. Dopodiché un suggerimento da Brunelli e magari vi mettiamo in contatto Roberto Brunelli, così può dare qualche indicazione concreta a Nicoletta. Il primo suggerimento da dare qual è? Sicuramente quello di rivolgere le case d'aste più importanti, se le opere hanno un valore molto importante. Mandano un perito a fare una valutazione? No, generalmente si inviano le fotografie e poi c'è subito un feedback quasi in tempo reale dalla casa d'asta stessa in quando vi ha un interesse. E mi inserisco un secondo dicendo che Cuore Denari, la trasmissione che stiamo facendo, viene riferito spessissimo dai neofiti che si avvicinano per la prima volta all'investimento in arte, che quando entrano in galleria, anche nella piccola galleria della propria città, sentono il cuore battere come di fronte a un esame universitario. Quindi questo è un aneddoto molto curioso, ma che si riscontra veramente in tantissimi neofiti al collezionismo. Hai visto? Hai visto che qua, una volta che abbiamo cominciato, ci sono venuti tutti dietro, Nicoletta, per cui questo lo dobbiamo riconoscere ogni giorno. Io intanto ringrazio molto Roberto Brunelli, perché è stato veramente un approfondimento molto interessante. Magari ci torniamo al più presto su questi con argomenti. Con tanto piacere. Grazie. Allora, grazie. Carmelo ci fa il segno. Cosa ma fa? Lo sappiamo che sempre un tempo po' molesto, di... guarda. Oh, no, ma sai che mi voleva raccontare della sua amica scultrice e io gli ho chiesto a microfoni spenti: "Ma hai fatto da modello tu?" Traffico. Non voglio pensare. Cuore e denari. E ci siamo, adesso affrontiamo un tema dai grandi numeri, parliamo di ipertensione, un fattore di rischio che pesa sulla salute di oltre 15 milioni di italiani. Questo è il dato che conosciamo, ma è un dato per difetto, perché c'è anche chi è iperteso e non lo sa, e chi pur sapendolo e curandosi non riesce comunque ad avere valori accettabili, o forse dovrei dire ottimale, e ciò può succedere per una serie di ragioni che cercheremo di analizzare oggi, ma che potete aiutarci a scoprire anche voi, raccontandoci se e come riuscite a controllare la vostra pressione, se la cura che state seguendo vi dà qualche disturbo, ogni quanto la controllate, se avete modificato il vostro stile di vita da quando avete scoperto di essere ipertesi, se la pressione non l'avete mai misurata ma sapete che sono ipertesi i vostri genitori. Le vostre chiamate al nostro numero verde 800 24 00 24. In linea con noi il professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Fondazione della Società Italiana dell'Ipertensione. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ci siamo mangiati metà del tempo a disposizione soltanto con la lettura dei titoli. È vero, adesso io dico la prossima dirò professor Borghi, punto. Brava. Oppure dico il nostro Claudio, punto. Bravissima, va la bene. Cosa più semplice. Allora, è lei che ha 8 righe di qualifica, mannaggia lei. Io le sacrifico molto. Va bene, allora sacrifichiamo e andiamo, perché oggi è una giornata importante. Lo slogan è "Impara a conoscere la tua pressione arteriosa", è un invito che suona anche come una raccomandazione, insomma misuratevi questa pressione. Assolutamente, misurate la pressione perché questo è l'unico modo per fare una diagnosi precoce, l'unico modo per fare prevenzione. Ogni volta che io partecipo a una qualsiasi forma di trasmissione mi si chiede quali siano i metodi esoterici che servono per fare prevenzione nei confronti della pressione o della pressione alta. L'unico metodo efficace è prendere lo sfigomanometro e misurarsi la pressione, la consapevolezza. E questa giornata è dedicata soprattutto alla consapevolezza. Allora, abbiamo subito un messaggio che arriva su WhatsApp. 43 anni, pressione minima, sempre a 40-50, nessuno mi sa dire come farla alzare. E ci dice anche buon lavoro. Professore, questo messaggio ci permette di dare delle indicazioni sulla minima e la massima? Certo, la minima e la massima devono essere al di sotto di 140 e 90 rispettivamente, quindi la massima inferiore a 140, la minima inferiore a 90, quindi questo nostro ascoltatore o ascoltatrice ha sicuramente valori pressori che si collocano nel range di normalità. Se è una gentile signora o signorina ed è giovane, è verosimile che questi valori siano compatibili con queste due condizioni. In generale le donne giovani hanno valori pressori più bassi, questo 40 di minima corrisponderà verosimilmente a un valore non molto superiore o forse inferiore a 100 di massima, e questo è uno straordinario patrimonio, è una cosa che protegge le nostre arterie meglio di qualsiasi investimento, e quindi capisco che alcune volte diventa difficile da tollerare, capisco altrettanto che in una proiezione futura è una cosa ovviamente da conservare. Per migliorare un pochino il controllo della pressione in questo caso, qualche caffè, se è gradito, mangiare eventualmente un pochino più salato e fondamentalmente rassegnarsi e pensare al grande vantaggio di essere portatori di un meccanismo di protezione così importante. Allora, prof, ormai no, come possiamo chiedere? Prof, cosa dobbiamo? Claudio, insomma. Per nome, allora, per nome, Antonella, allora, io vorrei raccomandare a Fausto di prendere la pillola la mattina per la pressione, perché se no sua moglie deve inseguirlo ogni giorno dalla mattina per fargliela prendere. Allora, uniamo anche l'invito del nostro esperto. La pillola, se è arrivato il momento di prenderla, bisogna prenderla, e bisogna prenderla tutti i giorni, professor Borghi. Certo, non... perché ci sono persone che misurano la pressione, vedono che la pressione è normale, allora dicono ma va là, dai, per oggi la pillola non la prendo. Quindi Fausto, mi raccomando, con sta pillola, professore. Fausto, se fa questo, se ha questo tipo di pensiero, Fausto si sta muovendo nella direzione sbagliata, nel senso che la terapia antipertensiva non guarisce l'ipertensione, ma controlla i valori, per cui fondamentalmente li tiene a posto fin tanto che la terapia è in gioco. Quindi per questo motivo va assunta sistematicamente ogni giorno. L'aspetto importante è che oggi il limite principale del controllo della pressione non è l'efficacia dei farmaci, che sono straordinariamente efficaci, è il fatto che i pazienti li prendano o meno, che è una questione che è totalmente indipendente dall'efficacia stretta delle molecole. E noi abbiamo, attraverso la Società Italiana dell'Ipertensione, questa è parte anche del programma di questa giornata, promosso in questi anni un meccanismo di incremento della coscienza individuale nei confronti dell'aderenza al trattamento farmacologico, e devo annunciare in diretta con grande orgoglio che il controllo della pressione arteriosa, che in Italia si attestava intorno al 35-40% dei pazienti, oggi è fra il 60 e il 70% della popolazione, semplicemente facendo pressione su questi aspetti, sull'uso di combinazioni di farmaci, ma soprattutto convincendo i pazienti della utilità di assumere i farmaci ogni giorno. Professore, la giornata di oggi vuole suonare anche come un invito a chi proprio la pressione sa che c'è, perché però non se la misura. E ci rivolgiamo anche a delle persone giovani, anche molto giovani. Professore, concentrando la vostra attenzione anche sui bambini. Perché sui bambini? Perché i nostri bambini sono, direi con un eufemismo, molto morbidi, sono i più morbidi d'Europa, e il sovrappeso nei bambini può essere una caratteristica che deve invitarci a fare dei controlli, professore. Certo, questi bambini sono meravigliosamente morbidi, e di questo sono molto gratificanti sicuramente le mamme e i babbi che hanno rapporti con questi bambini meravigliosi, meno gratificate le loro arterie e il loro apparato cardiovascolare, che si trova a essere sottoposta a una condizione di sovraccarico già nelle fasi iniziali dell'infanzia. Noi ci troviamo oggi, secondo statistiche dei colleghi pediatri, con un'incidenza di ipertensione superiore al 10% nell'età corrispondente alle scuole elementari, e una crescita progressiva nell'adolescenza. Questo vuol dire sostanzialmente che ci sono meccanismi che fanno scattare più rapidamente quella quell'aspetto genetico che sta all'interno di molti dei futuri ipertesi, invece di farlo comparire nell'età adulta, tende a farlo comparire nell'infanzia. Il vantaggio di questa situazione è che nell'infanzia il fenomeno è assolutamente prevenibile. Lo svantaggio, naturalmente, è che noi dobbiamo incominciare prima a propugnare strategie di prevenzione. Ma questo è un aspetto estremamente interessante perché è fortemente integrato con gli aspetti di tipo educativo che la scuola può fornire. Professore, facciamo allora una raccomandazione ai nostri ascoltatori. Misuratevi la pressione, almeno ogni quanto, professore, per chi non ha ancora ricevuto una diagnosi. Per chi non ha una diagnosi e non è iperteso, diciamo, fondamentalmente è sufficiente misurarsi la pressione 3-4 volte l'anno, ammettendo di trovarsi in una condizione nella quale si ha magari un certo grado di predisposizione verso lo sviluppo di ipertensione, quindi magari avere familiarità per ipertensione o essere leggermente sovrappeso, fare una vita sedentaria, fare una professione che porta a sedersi troppo spesso in un tavolo di un ristorante e quindi fatalmente mangiare più salato. Nel caso in cui invece la vita sia un pochino più semplice, un pochino più regolare e soprattutto nelle donne che hanno prima della menopausa valori di pressione più controllati, credo che sia sufficiente una o due volte l'anno. Dopo la diagnosi naturalmente la situazione cambia un pochino. Cambia e ogni quanto va controllata per controllare se la terapia è adeguata e poi c'è un'ora particolare in cui misurarla, un po' c'è l'ora della febbre, c'è anche l'ora della pressione, professore. Sì. Fondamentalmente una volta stabilita la terapia, nelle fasi iniziali, appena stabilita la terapia, probabilmente è opportuno misurarsi per la prima settimana la pressione ogni giorno e poi andando progressivamente a scalare. Due o tre volte alla settimana, poi una volta alla settimana potrebbe essere più che sufficiente una volta che si è valutato che il valore di pressione sia completamente stabilizzato. Per quello che riguarda la giornata esiste quello che si chiama ritmo circadiano, l'ho detto molte volte avendo avuto da parte vostra la cortesia di essere ospitato a questi microfoni, il che vuol dire che la nostra pressione ha un andamento nell'arco della giornata che è basato su dei meccanismi interni dell'organismo per cui è un po' più alta al mattino, tende a ridursi nel primo pomeriggio e aumentare di nuovo lievemente verso la sera per poi ridursi in maniera significativa durante la notte. Quindi forse il momento migliore per misurarla è al mattino, appena svegli, prima di intraprendere la giornata, un po' perché si può valutare l'effetto residuo magari dei farmaci assunti il giorno precedente e un po' perché effettivamente quello è uno dei momenti nei quali i valori di pressione sono più alti. Se sono normali al mattino, saranno normali verosimilmente anche per il resto della giornata. Voilà, e allora noi ringraziamo il nostro amico, il professor Claudio Borghi, festeggiamo questa giornata, ricordiamoci di misurare la pressione e sulla nostra pagina troverete naturalmente anche le indicazioni. Grazie professor Borghi, grazie a prestissimo. A voi. Debora, adesso a voi. Te la misuro la pressione. Ma io sono a posto, lo sai che mi comporto bene, sì, dai, seguendo i tuoi consigli scrupolosamente. A domani! Domani.